Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Il Movimento 5 Stelle, in Italia come in Europa, viene comunque percepito e trattato come un corpo estraneo, da comunque eliminare e buttare fuori. Qui in Italia siamo entrati nel 2013 e Alfano è diventato ministro con i partiti politici che vengono dai partiti comunisti, e in Europa, nel momento in cui c'era una possibilità, giusto o sbagliata che fosse, di entrare in un determinato gruppo molto grande e di incidere di più, a un certo punto loro si sono tirati indietro, perché evidentemente è bene che alcune idee del Movimento 5 Stelle vengano un pochino ostacolate. Ma lei era ostacolate. A favore di questo accordo? La mia posizione è sempre stata riuscire, anche se è difficile, a formare un gruppo autonomo. Perché quindi noi quando andiamo, no, quando noi andiamo, no, le dico questo, quando noi andiamo da soli, secondo me è meglio. Insomma, meglio soli che mal accompagnati, così dice Di Battista del Movimento 5 Stelle, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, e con questo riprendiamo il nostro appuntamento quotidiano con il racconto della giornata, delle notizie, poi con gli approfondimenti, gli ospiti, di nuovo con voi Roberta Giordano. Spero siate tutte e tutti all'appello, insomma, man mano vi riacchiappiamo tutti insieme. Ricomincia quindi, vi dicevo, l'appuntamento della sera con il racconto della giornata. Moltissime notizie anche oggi, riprendiamo con la politica. Quest'anno è iniziato più o meno sempre con i soliti temi, purtroppo l'avete anche sentito anche prima dell'inizio di Effetto Notte, negli giorni scorsi, degli attentati, spargimento di sangue, terrorismo, e poi riprende anche la politica italiana, in questo caso con in primo piano oggi questa fallita alleanza tra il Movimento 5 Stelle e l'ALDE, il gruppo dei liberal democratici europei. Poi ne parleremo ampiamente se la voce regge, perché io invece come cosa mi sono riportata dall'anno vecchio anche la bronchite, e poi per rimanere in tradizione purtroppo anche un tentativo di femminicidio, due tentativi anzi oggi di femminicidi, uno di quali è a danni di una ragazza di 22 anni alla quale l'ex ha dato fuoco perché lei lo ha lasciato, e la cosa, come se non bastasse, la cosa assurda è che lei lo sta difendendo dall'ospedale. Parleremo anche di questo. Per i vostri commenti ci sono sempre due canali privilegiati per voi qui a Effetto Notte, che sono la pagina Facebook del programma oppure il numero per SMS e per i WhatsApp, che è il 349-238-6666. Lo ripeto, pagina Facebook di Effetto Notte oppure 349-238-6666. Allacciate le cinture perché le notizie sono moltissime. Politica, salta l'accordo tra Movimento 5 Stelle e il gruppo europeo dei liberali dell'ALDE, inutile l'approvazione online del movimento. Libia riapre l'ambasciata italiana a Tripoli, firmato un memorandum tra l'Italia e il paese africano per il controllo dell'immigrazione clandestina. Stati Uniti, il capo della CIA attacca Donald Trump e dice mette gli Stati Uniti a rischio. Malati curati a terra all'ospedale di Nola, sospesi i dirigenti sanitari. Un nuovo tentativo di femminicidio, lei 22enne lo lascia e lui le dà fuoco, lei non è in pericolo di vita, lo difende, ma la procura conferma la sua colpevolezza, e nel Mantovano un uomo cerca di strangolare la moglie che vuole la separazione e poi si uccide. Addio Bauman, è morto a 91 anni il filosofo della società liquida. Maltempo, Italia nel gelo, la neve crea difficoltà a sud, la Puglia chiederà lo stato di emergenza. E per il calcio è Claudio Ranieri il vincitore del premio di allenatore dell'anno assegnato dalla FIFA a Zurigo, e la federazione inglese del calcio contro l'omofobia propone ai calciatori gay di fare un coming out collettivo. Partiamo quindi allora da questa fallita alleanza, almeno per il momento, tra Movimento 5 Stelle e il gruppo europeo dei liberal democratici dell'ALDE. Salta l'accordo a Bruxelles con il gruppo liberale ALDE, malgrado il sì dei 5 Stelle sul blog. Inutile la votazione online, che pure aveva ottenuto il sì del 78,% degli iscritti. Per il capogruppo dei liberali, Guy Verhofstadt, è impossibile un'alleanza con i grillini. Non ci sono sufficienti garanzie per portare avanti un'agenda comune per riformare l'Europa, dichiara l'ex premier belga. Un'alleanza che comunque era stata definita tecnica dallo stesso movimento, malgrado i malumori dentro i 5 Stelle, così Laura Castelli. Non è una svolta europeista, perché la tecnica del Parlamento europeo è questa: per essere un parlamentare europeo che incide e presenta degli atti e porta a casa dei risultati voluti dai cittadini e dai programmi che abbiamo presentato per andare in Parlamento europeo, bisogna far parte di un gruppo parlamentare. Tutto questo malgrado l'offerta del movimento di appoggiare alla presidenza del Parlamento europeo proprio Verhofstadt contro l'italiano Antonio Tajani. E in Italia anche Scelta Civica, che fa parte di ALDE, aveva annunciato che Nell'eventuale entrata dei grillini avrebbe lasciato il gruppo. Ma Beppe Grillo replica: abbiamo fatto tremare il sistema, l'establishment è contro di noi. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E poi torneremo, vi dicevo, a riflettere su questa svolta europeista, per ora mancata, questa alleanza del Movimento 5 Stelle, e anche sul significato, che cos'è una nuova strategia politica, in quale direzione. Per quanto riguarda invece la politica romana, riflettori sempre puntati sulle inchieste che coinvolgono il Campidoglio, recenti e passate. Raffaele Marra resta in carcere, il fratello perde l'incarico al comune. Tra Piazzale Clodio e Campidoglio il nuovo anno inizia ufficialmente con un'ulteriore presa di distanza da parte della sindaca, da quei collaboratori che per lei rappresentano più di un motivo di preoccupazione, politica e pure giudiziaria. Nello stesso giorno in cui il Tribunale del Riesame conferma il carcere per l'ex responsabile del personale, già uno dei suoi più stretti collaboratori, arrestato a dicembre per corruzione, Virginia Raggi chiede per il fratello Renato Marra l'annullamento dell'incarico di direttore del Dipartimento Turismo, incarico contestato dall'anticorruzione su cui la prima cittadina romana potrebbe essere chiamata a breve a dare spiegazioni ai PM. Così, in attesa dell'interrogatorio, la sindaca prende le distanze dai Marra e mentre l'amministrazione grillina fronteggia le sue grane giudiziarie per l'ex sindaco Ignazio Marino, le accuse di un tempo vengono ridotte solo a imprecisione. Non c'è nessun peculato per quelle cene pagate con la carta del Campidoglio, ma, scrive il giudice nelle motivazioni della assoluzione, solo superficialità del sistema. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Per quanto riguarda invece Milano, altri 6 mesi per l'indagine sull'appalto per la piastra di Expo, in cui è indagato tra gli altri anche il sindaco Sala, che ora potrebbe chiedere di essere ascoltato dai magistrati. E spostiamoci ora sui dati Istat sull'occupazione. Gli occupati salgono a novembre di 19.000 unità rispetto ad ottobre, più 0,1%, e di 201.000 unità rispetto allo stesso periodo del 2015, più 0,9%. L'incremento, spiega l'Istat, riguarda le donne e le persone over 50. Aumenta inoltre la partecipazione al mercato del lavoro, con una parallela diminuzione della platea degli inattivi, fatto questo che spinge però in alto il tasso di disoccupazione, che a novembre si attesta all'11,9%. Segno più anche per la disoccupazione giovanile, che sale al 39,4%, in aumento di 1,8 punti percentuali rispetto al mese precedente. Elemento questo che preoccupa il ministro del Lavoro Poletti. Alla diminuzione del tasso di inattività tra i giovani, spiega, corrisponde solo un aumento della disoccupazione. E in tema di giovani, Poletti riferirà domani al Senato sulle discusse frasi su quelli all'estero. Sarà poi calendarizzata la mozione di sfiducia presentata contro di lui dalle opposizioni. Sempre sul fronte del lavoro, mercoledì, quindi, la Consulta si esprimerà sull'ammissibilità dei quesiti referendari su voucher e articolo 18. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ora occupiamoci di Libia, di immigrazione, perché un progetto di memorandum d'intesa per rafforzare la cooperazione tra Italia e Libia contro l'immigrazione illegale e il traffico di esseri umani è stato concordato oggi a Tripoli nel corso di una visita del ministro dell'interno Marco Minniti, che ha incontrato il presidente del Consiglio presidenziale Fayez Mustafa al-Sarraj, e domani riapre l'ambasciata italiana a Tripoli. Cerchiamo poi più tardi nel corso di Effetto Notte di capire il significato di quello che sta succedendo. Stati Uniti. Il numero uno della CIA, John Brennan, ha attaccato Donald Trump accusandolo di ignorare la comunità dell'intelligence, quindi dei servizi segreti americani, mettendo il paese, dice, in grande rischio e pericolo. La nuova amministrazione, dice Brennan, deve prendere atto che questo è un mondo di sfide pericoloso. L'intelligence può aiutare a tenere il paese al sicuro e proteggere gli interessi legati alla sicurezza nazionale. Torniamo in Italia, le notizie italiane, con il caso di Nola. I malati curati a terra in pronto soccorso, sono stati sospesi i dirigenti dell'ospedale. Tutto è cominciato così, con un video virale su internet e foto pubblicate online con segnalazioni di pazienti del pronto soccorso adagiati e curati sul pavimento per assenza di letti e barelle all'ospedale civile Santa Maria la Pietà di Nola, nel napoletano. E ora si susseguono polemiche e provvedimenti. Abbiamo avuto un evento eccezionale. Così si difende il direttore sanitario dell'ospedale Andreo De Stefano, perché dice è l'unico ospedale per un bacino di 600.000 abitanti con 107 posti stiletto 15 barelle. De Stefano è stato sospeso a fine giornata dal servizio con il responsabile del pronto soccorso Andrea Manzi e il responsabile della medicina d'urgenza Felice Avella in attesa dell'esito delle indagini interne. Dopo la visita dei carabinieri del NAS inviati fin dal mattino dal ministro della Salute Beatrice Lorenzin e dopo che il presidente della giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, convocati tutti i responsabili delle ASL e delle aziende ospedaliere della Campania, aveva chiesto di avviare immediatamente le procedure di licenziamento dei responsabili del pronto soccorso e del presidio ospedaliero di Nola. L'obiettivo era salvare la vita dei pazienti, spiega ancora il direttore sanitario riferendosi alle due persone ritratte nella foto che ha fatto il giro dei social. Una di quelle, ha raccontato, era in arresto cardiaco. La defibrillazione l'ha salvata. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. La cronaca è grave. Al Policlinico di Messina una ragazza di 22 anni data alle fiamme dal suo ex fidanzato che l'ha sorpresa ieri mattina intorno alle 4:30 all'alba in casa. Il giovane poi è fuggito. Stamattina si è presentato con l'avvocato alla polizia. Il 24enne è accusato di tentato omicidio. L'aggressione è avvenuta nel quartiere Bordonaro, alla periferia di Messina. La ragazza ricoverata al Policlinico è in condizioni gravi, però nello stesso tempo difende il suo ex fidanzato. Dice: non è stato lui, avete arrestato un innocente, però la procura sembra non aver dubbi sulla sua colpevolezza. E poi torneremo a parlare anche, tra l'altro, della reazione di questa ragazza, che purtroppo è anche molto comune tra le donne che ricevono violenza. E nel Mantovano, a Pegognaga, un uomo, un 60enne muratore in pensione, ha atteso che la moglie coetanea rientrasse dal lavoro. I due hanno cominciato a litigare. Il marito, che non accettava la fine del matrimonio, si è scagliato con veemenza contro di lei, tentando di strangolarla. Quando poi lei si è divincolata e ha cercato di chiamare i carabinieri, lui si è suicidato impiccandosi. Di nuovo all'estero, due turisti italiani di 20 e 18 anni sono stati arrestati a Krabi, nel sud della Thailandia, per aver strappato e gettato a terra la bandiera thailandese, un reato che potrebbe costare loro fino a 2 anni di carcere. I due giovani italiani sono stati costretti a scusarsi in un video diventato virale sui social e con tutti i commenti profondamente negativi nei loro confronti. E poi in primo piano c'è la morte di Bauman. È morto in Gran Bretagna a 91 anni il sociologo e filosofo polacco Zygmunt Bauman. Acquisì notorietà mondiale descrivendo la realtà postmoderna contemporanea in termini di società liquida, contrapposta alla società solida del modernismo. Sentiamo a questo proposito Giuseppe Sciortino, docente di sociologia all'Università di Trento e collaboratore del Sole 24 Ore. Bauman è stato uno dei sociologi più popolari e più controversi di questi ultimi decenni. Si può dire a tutti gli effetti che abbia avuto due vite, spesso apparse a molti come incompatibili. È stato, negli anni del dopoguerra, un rigido militante comunista e uno dei principali sociologi marxisti. Emigrato dalla Polonia, quando il comunismo assunse aspetti sempre più apertamente antisemiti, ha insegnato per decenni in Inghilterra in una relativa oscurità, per riapparire, a partire dalla fine degli anni Ottanta del secolo scorso, in una veste completamente nuova. Uno dei principali e meglio conosciuti teorici del postmoderno. La rottura col Bauman precedente non poteva essere più radicale. Al posto di inesorabili leggi di sviluppo storico, un futuro aperto e imprevedibile. Al posto dell'orgoglio dei produttori, un mondo di consumatori semiciechi. Al posto del progresso, la costante possibilità delle barbarie. L'aggettivo che l'ha reso famoso è liquido. La modernità per Bauman è un processo che in tutti i campi smantella ogni sicurezza, ponendo costantemente gli individui di fronte a scelte che non possono essere giustificate, riferendosi a un'identità stabile, sia essa la classe, il genere, la nazione o la propria famiglia. Un mondo insicuro che da un momento all'altro può dare troppo o troppo poco. Una società endemicamente rischiosa. La visione di Bauman è stata sottoposta a molte critiche, più o meno accurate. È indubbio tuttavia che pochi come lui sono stati in grado di cogliere l'umore diffuso di questi decenni, il modo in cui tendiamo sempre più spesso a pensare a noi stessi e agli altri. Il maltempo, l'Italia è ancora nel gelo, lo sentiamo, lo sentite anche dalla mia voce, sino almeno a mercoledì, e poi la neve continua a creare difficoltà al centro-sud. La Puglia chiederà lo stato di emergenza, domani sono deboli nevicate al nord, poi miglioramenti al centro-sud, però poi ci facciamo raccontare tutto dal nostro meteorologo. Per quanto riguarda invece questa notizia carina che riguarda la musica, dopo 25 anni torna il jukebox per vinili, per i dischi, quelli di una volta, insomma per i nostalgici. È stato presentato questo jukebox al CES di Las Vegas, il salone dell'elettronica di consumo. Costa $12,000 per chi lo volesse. Poi per chiudere, due notizie dal calcio. E Claudio Ranieri, il vincitore del premio di allenatore dell'anno assegnato dalla FIFA a Zurigo. A leggere il nome del vincitore nel corso del galà è stato Diego Maradona. Lui, Ranieri, ha detto: sono pazzo di felicità, in Inghilterra è successo qualcosa di incredibile. E poi questa iniziativa della Federcalcio inglese per combattere l'omofobia nel mondo del calcio propone il coming out collettivo dei giocatori. Così ha spiegato il presidente della Federcalcio inglese Greg Clark, dice, dopo essersi consultato nelle ultime settimane con diversi calciatori omosessuali, dice: se vengono fuori tutti insieme, lo dicono tutti insieme, non ci si concentra su il singolo e diventa più facile. Bene, per i vostri commenti 349-238-6666, questo è il numero per SMS e WhatsApp, oppure la pagina Facebook di Effetto Notte. Intanto ringrazio tutti coloro che sono felici del ritorno di Effetto Notte, così per essere costantemente aggiornati a fine giornata, scusate il bisticcio di parole, con le notizie dall'Italia e dall'estero, e tra poco, come sempre, con l'approfondimento di alcuni temi, in particolare con gli ospiti. Ringrazio Maria Grazia, Beatrice, Ennio, e poi Licia e molti altri. Ci sentiamo anche con i messaggi tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. 60 minuti per stare insieme. Adesso è appena passato il primo quarto d'ora, o circa 20 minuti. Roberta Giordano sempre con voi. Abbiamo quindi, come sempre, il racconto della giornata nella prima parte avuto, e adesso invece cominciamo a parlare di vari temi. Cominceremo dalla politica, da questo tentativo di accordo del Movimento 5 Stelle con i liberaldemocratici, del gruppo europeo dei liberaldemocratici, che però è fallito. C'è stato un doppio colpo di scena oggi, e poi parleremo di altri temi. Tra poco vi ricordo anche quali sono le notizie principali. Per i vostri commenti, sempre pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il 349-238-6666. Per esempio, dice questo ascoltatore, se ritrovo il messaggio, dice: la dichiarazione di Trump riguardo al rafforzamento dell'arsenale atomico e la partnership con Farage credo abbiano fatto anticipare i tempi dell'uscita dall'UKIP di Nigel Farage del Movimento 5 Stelle, che purtroppo non ha valutato che l'Europa è la matrice di ciò che accade in Italia in relazione al tradimento ricevuto dai liberali. È un po' criptico questo messaggio. Poi lo rigiriamo a Barbara Fiammeri, che raggiungiamo tra pochissimo. Intanto, con tutta la voce che ho, cerco di raccontarvi, di risintetizzarvi di nuovo le notizie più importanti. Lo schiaffo dei liberali europei a Grillo, no dell'ALDE al Movimento 5 Stelle, eppure per l'adesione aveva votato il 78,5% sul blog degli iscritti, ma poi il capogruppo dell'ALDE, Verhofstadt, ha chiuso a questo accordo. I malati curati a terra a Nola, in Campania, in AS all'ospedale, e il governatore De Luca dice: subito via i responsabili. Intanto tre dirigenti sono stati sospesi. Migranti, riapre l'ambasciata italiana in Libia. Alfano dice: è un segnale di fiducia. Intanto c'è stata oggi un'intesa tra il ministro degli esteri italiano Minniti e il presidente libico Serraj sul contrasto all'immigrazione clandestina. C'è anche questa polemica di Meryl Streep, l'attrice che oggi ha ricevuto un Golden Globe, che ha attaccato Trump, e lui dice: sei una lacchè di Hillary Clinton. E poi meno inattivi, sale però la disoccupazione in Italia. Questi dati Istat per i giovani: la disoccupazione è sopra il 39%, più lavoro invece fra gli over 50. E il ministro Poletti dice: cresce l'occupazione. E poi di nuovo un tentativo di femminicidio: è stata cosparsa di benzina una 22enne a Messina, è bruciata dall'ex, ma poi lei dal letto dell'ospedale lo difende, ma il PM di Messina non le crede, dice: contro di lui altre prove. L'Italia al gelo, è il freddo il mio principale nemico. In effetti, ancora disagi sulle strade del centro-sud, fallisce scuole calde a Roma, gli alunni a casa per il freddo. E addio a Zygmunt Bauman, il teorico della società liquida. Quindi riniziamo con questa nuova stagione, diciamo, di questo 2017 di Effetto Notte, con la politica italiana, questa svolta del Movimento 5 Stelle, una svolta europeista che era stata accolta con il voto, nel voto online degli iscritti al Movimento 5 Stelle, col 78% del favore. Quasi la totalità degli iscritti aveva detto sì all'adesione del Movimento 5 Stelle al gruppo dei liberali europei dell'ALDE, sancendo in questo modo quindi il divorzio dagli euroscettici di Nigel Farage. Ma da Bruxelles, subito, da oggi, da questa mattina, quando Grillo ha annunciato questo divorzio e questa richiesta di adesione, subito sono arrivati malumori da Bruxelles, soprattutto da parte francese, e addirittura la vice capogruppo Marielle de Sarnet aveva bocciato l'intesa con i grillini definendola un'alleanza empia. Poi nel tardo pomeriggio è arrivato direttamente lo stop dell'ALDE, il capogruppo. Guy Verhofstadt ha annunciato la rinuncia dell'alleanza del Movimento 5 Stelle, ha detto: sono arrivato alla conclusione che non ci sono sufficienti garanzie di portare avanti un'agenda comune per riformare l'Europa, e dicono rimangono, dice il capogruppo dell'ALDE, rimangono differenze fondamentali sulle questioni europee chiave col Movimento 5 Stelle. Quindi un doppio colpo di scena. Oggi questo... svolta annunciata da Grillo, e dall'altra però l'ALDE che nel tardo pomeriggio di oggi ha detto no grazie, non ci alliamo con voi. E però c'era stato un accordo in realtà il 4 gennaio che evidentemente non è andato in porto, e allora Grillo ha risposto che l'establishment ha deciso di fermare l'ingresso del Movimento 5 Stelle nel terzo gruppo più grande del Parlamento europeo. Dice: abbiamo dato uno scossone e quindi evidentemente abbiamo fatto paura a qualcuno. Ne parliamo con la nostra Barbara Fiammeri, bentornata Barbara. Buonasera. Del Sole 24 Ore. Quindi, insomma, è quella che sembrava oggi una svolta, e effettivamente però, diciamo, nelle intenzioni c'è stata, non è andata in porto per il momento. Qualcuno ha accusato dall'Italia il Movimento 5 Stelle di pensare a soldi e poltrone, perché più grande il gruppo a cui appartieni, più conti, più arrivano finanziamenti. E invece il Movimento 5 Stelle, vogliamo sentire che cosa ha detto Di Battista, l'abbiamo sentito anche all'inizio, a 8:30 stasera. Il Movimento 5 Stelle in Italia, come in Europa, viene comunque percepito e trattato come un corpo estraneo, da comunque eliminare e buttare fuori. Qui in Italia siamo entrati nel 2013 e Alfano è diventato ministro con i partiti politici che vengono dai partiti comunisti, e in Europa, nel momento in cui c'era una possibilità, giusto o sbagliata che fosse, di entrare in un determinato gruppo molto grande e di incidere di più, a un certo punto loro si sono tirati indietro, perché evidentemente è bene che alcune idee del Movimento 5 Stelle vengano un pochino ostacolate. Ma lei era a favore di questo accordo? La mia posizione è sempre stata riuscire, anche se è difficile, a formare un gruppo autonomo. Perché quindi noi quando andiamo, no, quando noi andiamo, no, le dico questo, quando noi andiamo da soli, secondo me è meglio. Barbara, quindi questa cosa aveva spaccato già in giornata l'ALDE, che poi dopo ha detto di no. Aveva spaccato però anche il Movimento 5 Stelle, perché ci sono dissensi anche all'interno del Movimento 5 Stelle con questa scelta che aveva deciso il Movimento. E comunque bisogna dire che è stata una mossa molto politica, forse in contrasto, no, con la direzione, di solito l'atteggiamento che ha il Movimento 5 Stelle nei confronti dei negoziati, della politica tradizionale. Ma diciamo che si è trattato di una mossa soprattutto tattica. Credo che la verità l'abbia detta Di Maio oggi, quando ha fatto una dichiarazione dicendo che si è trattato di una questione tecnica. Sì. E che invece, se fosse stato per affinità politica, allora avremmo sbagliato gruppo, ha detto Di Maio, no? Cioè riferendosi all'ALDE. Beh, insomma, cioè, quando si decide di appartenere a un gruppo, solitamente lo si fa per un'affinità politica, non so, i popolari piuttosto che i socialisti, dove è il PD, oppure appunto il gruppo di Farage. Questa scelta in realtà fatta da Grillo in sordina assieme a Casaleggio, di cui si dice fosse a conoscenza appunto solo Di Maio e il deputato Borrelli, il deputato europeo Borrelli, che è appunto il braccio destro di Casaleggio a Strasburgo. Cioè, suona un po', arriva alla vigilia della scelta del nuovo presidente del Parlamento europeo. Secondo me questo aspetto temporale non è influente. Il 17 gennaio si deciderà la presidenza del Parlamento europeo, su cui ci sono vari movimenti, come sempre avviene, e delle presidenze delle commissioni, e poi anche varie poltrone, tipo quelle della vicepresidenza del Parlamento europeo. Nonché c'è anche l'aspetto economico, appunto, tra le questioni tecniche, ovvero il fatto che l'appartenenza a un gruppo garantisce una serie di finanziamenti da parte del Parlamento europeo, che invece si perdono qualora si entri nel gruppone dei non iscritti, insomma. Quindi si parla di circa 700.000 euro che rischia di perdere il Movimento 5 Stelle se dovesse entrare poi tra i non iscritti. Quindi diciamo queste sono le ragioni tecniche a cui probabilmente alludeva Di Maio. Le ragioni politiche invece sono difficilmente comprensibili, perché ricordiamo che l'ALDE è forse il gruppo più europeista che siede a Strasburgo, nel senso che è il gruppo di Mario Monti, è il gruppo a cui si è spesso ispirato anche lo stesso Romano Prodi, è il gruppo ha difeso l'euro sempre e comunque. Cioè, insomma, la scelta di un gruppo come questo per un movimento euroscettico come i 5 Stelle insomma, ha colto un po' tutti di sorpresa, a partire dagli stessi esponenti pentastellati, che insomma, cioè, alcuni dei quali non hanno nascosto il loro disappunto, come appunto Morra, perché effettivamente politicamente è una scelta incomprensibile, insomma, che un movimento che vuole fare il referendum per l'uscita dall'euro, che è nel suo programma, aderisce a un gruppo che invece è fortemente europeista e pro-euro, è poco comprensibile da un punto di vista politico. Poi appunto, se ci sono altre ragioni, appunto quelle tecniche a cui faceva riferimento Di Maio, sostenendo però che appunto lui stesso ribadisce che non ci sarebbe alcuna affinità politica, è difficilmente comprensibile. Devo dire che è stata una scelta spiazzante, ma in senso negativo. È poco comprensibile anche questa cosa di far votare un accordo che è stato preso da Grillo pare il 4 gennaio. Sì, il 4 gennaio con sì, cioè dirlo ieri, farlo votare questa mattina, cioè in poco tempo, senza neanche praticamente un dibattito all'interno, insomma, tutto questo suona un po' anomalo. Sì, cioè anomalo, perché non è che stiamo parlando di una cosa piccola, l'adesione, cioè è una scelta importante quella di aderire o meno a un gruppo. Ricordo che quando c'è stata la formazione del Parlamento di Strasburgo dopo le ultime europee, la discussione su a quale gruppo far riferimento è stata travagliata tra i 5 Stelle, che alla fine avevano deciso appunto proprio per il gruppo più anti-europeista, appunto quello di Nigel Farage. Vediamo adesso come procede dopo questa, non so come definirla, o scivolata o tentativo di alleanza. Poi vediamo quali saranno le prossime mosse. L'hanno appena iniziato, quindi ne abbiamo ancora da parlare, da discutere. Grazie Barbara Fiammeri, buon anno. Grazie a voi, buonasera. Ciao Barbara. Litigavano sempre, i primi tempi, no, i primi tempi si erano conosciuti, erano felici, infatti mi ha detto mamma, sai, ho conosciuto un bravo ragazzo, te lo voglio fare conoscere, tu ok, Lenia, portalo a casa e fammelo conoscere. Allora in primo momento anch'io mi sembrava un bravo ragazzo, invece poi si è rivelato molto geloso, molto possessivo, vedevo Lenia spesso piangere, dicevo dai Lenia non va bene, un ragazzo che ti tratta così, era troppo mammato pure, litigavano per qualsiasi cosa, ho detto Lenia, non fa per te questo ragazzo, Ilania, ascolta quello che dico io, perché al di fuori io vedo determinate cose che non fa per te il ragazzo. Mamma, lo so, però li voglio bene. Qua l'ha detto, ok Ilania, è la tua scelta. Siamo le solite, purtroppo, tocca parlare anche inizio d'anno di un tentativo di femminicidio, un altro c'è stato, vi raccontavo anche nel Mantovano, un uomo che ha cercato di strangolare la moglie che lo voleva lasciare, poi si è suicidato. In questo caso, quello che avete sentito è la mamma di Ilenia Grazia Bonavera, che è appunto la ragazza di 22 anni a cui l'ex fidanzato ha dato fuoco ieri. Lei è ricoverata in ospedale in condizioni gravi, non è in pericolo di vita, però ha avuto la forza di dire che lui è innocente, nonostante lui sia oggi abbia tentato la fuga, sia stato fermato, poi si è costituito con il suo avvocato e il PM di Messina dice no, abbiamo prove che sia stato lui, ma purtroppo non ci sorprende il fatto che sia l'ennesimo tentativo, cioè come da migliore tradizione tra virgolette italiana si prosegue con questo elenco di violenze contro le donne, ma la cosa che più fa male, tra l'altro, è che la ragazza cerca, come in moltissimi casi, le donne di difendere il suo aguzzino. Ne parliamo con Elisa Ercoli, che è presidente dell'associazione Differenza Donna. Elisa, buonasera. Buonasera, buonasera a tutte e a tutti. Come possiamo, che se ogni volta, no, diventa difficile trovare una o forse banale una spiegazione a questa reazione anche delle donne, delle giovani donne, come delle donne più grandi di età, quella addirittura dopo aver subito una cosa del genere di cercare di difendere l'ex fidanzato o fidanzato, un marito, ex marito che le ha aggredite? Beh, la prima cosa che possiamo dire noi come Differenza Donna, insomma, sono tantissimi anni che siamo impegnate nei centri antiviolenza, nel sostenere le donne in uscita dalla violenza, che dobbiamo ricordarci che la violenza contro le donne, quindi la violenza maschile contro le donne, è un fenomeno antichissimo che fa parte della nostra cultura, della cultura globale, quindi di tutti i paesi del mondo, ed è l'unico crimine contro l'umanità che è agito all'interno di rapporti che sono spesso nati come rapporti d'amore, che sono anche spesso appunto i padri dei nostri figli, quindi parliamo sicuramente dell'unico reato che nasce come un rapporto d'amore e che poi evolve in una situazione di potere che poi viene agito nei confronti delle donne sino a una confusione appunto nelle donne su che cosa significhi amore. Noi di Differenza Donna siamo convinte che su questo c'è una responsabilità sociale e quindi anche istituzionale molto forte, che ci deve vedere impegnate tutte e tutti per contrastare invece questo potere che è ancora così forte. Purtroppo noi in Italia assistiamo oggi a una recrudescenza, quindi benché sia un sistema, quello della violenza maschile contro le donne, è un sistema strutturale. Sì, strutturale, tanto cultura, che sembra routine, no? Alla fine, cioè succede quasi tutti i giorni, ogni 2 giorni, ogni 3 giorni, ma non gli si dà più tanta importanza, anche perché davvero sarebbe un bollettino da aggiornare costantemente, no? Sì, quindi dobbiamo capire che per contrastare questo tipo di fenomeno dobbiamo essere tutte impegnate, tutti impegnati, e che quindi dovremmo agire su, non solo su un piano. Forse quello che noi abbiamo fatto come errore in Italia è stato di pensare, di continuare a pensare che potessimo occuparci esclusivamente della violenza contro le donne, e invece noi dobbiamo occuparci del benessere della nostra società per cercare di destrutturare queste relazioni di potere che oggi di nuovo godono di una legittimazione sociale. Anche il vedere così tanto, no, questa spettacolarizzazione, questa narrazione che ancora veicola stereotipi e pregiudizi, e che quindi, non so, ammazzata per troppo amore, queste frasi che ancora si leggono, che fuorviano, tra l'altro, certo, fuorviano completamente da un'analisi reale di quel fenomeno. Ovviamente non può essere amore una persona che appunto dà fuoco alla persona che pensa o dice di aver amato. Beh, ma parliamo invece di una relazione che è basata invece su il controllo, sul potere, sul sentirsi affermato grazie alla sudditanza e al totale controllo dell'altra. Quindi c'è, secondo noi, e questo lo vediamo anche andando nei molti interventi che noi facciamo nelle scuole di ogni ordine e grado, c'è di nuovo una giustificazione, una legittimazione di questi poteri che invece continuano ad essere agiti e che soprattutto vengono di nuovo veicolati anche nelle bambine e nei bambini, tant'è vero che le adolescenti affermano nei test che noi facciamo quando entriamo a fare un intervento nelle scuole che quando devono limitare la propria libertà personale o le abitudini, devono modificarle, e quando iniziano una relazione con un nuovo fidanzato si sentono amate. Quindi, come dire, le donne sicuramente hanno fatto un lungo percorso di liberazione, sono entrate nel mondo del lavoro, le donne sono entrate in magistratura nel 63, sono in tutti i luoghi importanti di affermazione professionale. Però c'è il rischio di tornare indietro e bisogna agire senz'altro sulle più giovani, perché è grave anche e soprattutto che questa reazione l'abbia avuta una giovanissima di 22 anni, quella di difendere il suo aguzzino. Quindi grazie allora Elisa Ercoli, continuate voi la vostra come si può dire, azione di formazione, di educazione anche sentimentale. Questo poi è compito non solo delle associazioni delle donne, ma in particolare delle famiglie prima di tutto, e poi anche della scuola. Grazie Elisa Ercoli. Assolutamente, grazie a voi. Grazie, buona buon serata. Lavoro. E c'è qualcuno che dice, Roberta, vecchia fumatrice, con quella voce, non ho mai fumato una sigaretta in vita mia, me l'hanno fatte fumare moltissime però passivamente. E poi un altro ascoltatore dice, può durare 2 anni questa tua bronchite? È così, non vorrei che diventasse cronica. Ci sentiamo tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, anche quello giusto, conduttrice con voi, Roberta Giordano, sempre un po' bronchitica. Un ascoltatore mi dice, mi sa che la tua bronchite è un motivo ansiolitico. Non c'entra niente, perché quando fa caldo non c'è nessuna ansia e la voce ritorna. Comunque, insomma, abbiate pazienza. Vedo molti messaggi, siete contenti di ritorno di Effetto Notte. Anche il professor Mauro Girola, che dice, il mio programma preferito sulla mia radio preferita. Insomma, uomo di gran gusto, grazie a tutti. Quindi ritorna appunto Effetto Notte da oggi per il nuovo anno 2017. Molte le notizie le avete già sentite, abbiamo parlato di politica, del Movimento 5 Stelle, di questo tentativo di accordo con il gruppo europeo dei liberal democratici dell'Ande, che però per il momento è fallito. Scrive per esempio Giorgio sulla pagina Facebook di Effetto Notte, non capivo infatti cosa avessero a che fare quelli del Movimento 5 Stelle con i liberali, che peraltro sono stati abbastanza generosi con le ammissioni, specie in passato, insomma, fatto entrare altri. Dice Sergio, il problema del Movimento 5 Stelle, perché non parlare dei 20 miliardi di euro dati alla banca MPS invece che darli ai terremotati, eccetera eccetera. E poi dice Francesco, in questo breve inizio 2017 5 Stelle hanno già sdoganato l'avviso di garanzia per poi offrirsi di aderire al gruppo di Mario Monti se il buongiorno si vede dal mattino. E così molti altri vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte e al 349-238-6666. Ora passiamo a un altro tema che riguarda il gelo, il maltempo che sta imperversando in Italia e soprattutto al sud, ma vi ricordo anche quali sono tutte le notizie principali, se avete acceso adesso invece puntualmente alle 21. Per quanto riguarda la politica, il Movimento 5 Stelle fallisce l'accordo con i liberali dell'Alde, è stato inutile l'approvazione al 78% degli iscritti al movimento che hanno votato online. Libia riapre l'ambasciata italiana a Tripoli, firmato un memorandum tra l'Italia e il paese africano per il controllo dell'immigrazione clandestina. Stati Uniti, il capo della CIA attacca Donald Trump e dice mette gli Stati Uniti a rischio. Malati curati a terra all'ospedale di Nola, sospesi dirigenti sanitari. Un nuovo tentativo di femminicidio, ne abbiamo parlato poco fa, lei 22enne, lo lascia, lui le dà fuoco, lei che non è in pericolo di vita lo difende, ma la procura conferma la sua colpevolezza. E nel Mantovano un uomo cerca di strangolare la moglie che lo voleva lasciare, poi si uccide. Addio Bauman, è morto a 91 anni il filosofo della società liquida. Maltempo, ne parliamo a breve. Per il calcio è Claudio Ranieri il vincitore del premio di allenatore dell'anno assegnato dalla FIFA a Zurigo. Quindi vi dicevo, lo sentite anche dalla mia voce, il gelo imperversa nella penisola con la neve che tra l'altro sta creando problemi soprattutto al centro-sud, restano la Puglia e il Molise, le regioni dove si riscontrano le maggiori difficoltà viarie a causa del maltempo, e il presidente della regione Puglia, Emiliano, ha fatto sapere che chiederà la dichiarazione dello stato di emergenza. Chiediamo al nostro Paolo Corazzoni, Trevi Meteo. Ma questo freddo si fermerà, si attenuerà, Paolo? Allora, buonasera Roberta. Ciao Paolo, guarda, bentornato. Grazie anche a te. Sicuramente c'è da avere un po' di pazienza, perché questo freddo è arrivato e ce lo terremo in realtà ancora per qualche giorno. Tra l'altro, ondata di freddo per alcuni versi eccezionale, perché abbiamo anche battuto dei record sia a livello di temperatura, sia come quantità di neve caduta in alcune località del sud. Ebbene, domani sarà ancora una giornata molto fredda e con ancora neve protagonista, per fortuna in forma meno intensa, però stanno nuovamente le regioni del medio e basso Adriatico, anche le Marche questa volta, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, anche le aree terremotate purtroppo a vedere delle nevicate nelle prossime ore fino a domani sera, ancora l'Appennino meridionale, e domani attenzione, qualche fiocco lo vediamo anche al nord, anche in Lombardia, anche in Piemonte, però poca roba al nord Italia, in realtà precipitazioni molto molto deboli, però freddo, freddo in tutta Italia. Ecco, da mercoledì la situazione inizia a migliorare, quindi lentamente, Roberta, ci sarà davvero davvero pazienza, però da mercoledì temperature in progressivo aumento e anche precipitazioni sempre meno probabili, sempre meno diffuse. Poi sarà comunque un mese di gennaio molto movimentato e anche febbraio temo che lascerà il segno. L'avevamo detto anche in tempi non sospetti che questo inverno avrebbe fatto l'inverno e a tutti gli effetti lo sta facendo. Ecco. Fa il suo mestiere, tu dici. Quindi insomma sarà un sali e scendi in realtà tra gennaio e febbraio. Se si attenuano il gelo, non si può sperare che si sia un'avviata verso la primavera, troppo presto. No, infatti, insomma. Anche perché a livello europeo, perché non si può guardare solo nel nostro territorio, in meteorologia bisogna spaziare, insomma, e ci sono segnali per cui ancora sarà lunga questa fase, quindi insomma aspettiamoci anche in Italia nuove ondate di maltempo, anche se probabilmente meno intense rispetto a questa. Purtroppo ancora gelo. Grazie Paolo Corazzoni di Trevimeto. Ciao Paolo, ci risentiamo a fine settimana se tutto va bene. Grazie, buon tempo a tutti. Ciao Paolo. Direi che adesso aggiorniamo anche chi sta viaggiando, anche magari soprattutto in situazioni più di difficoltà, come abbiamo detto, al centro-sud, e poi ci ritroviamo con altri temi, anche con i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Sempre Roberta Giordano con voi per questo nuovo anno 2017, con la ripresa oggi di Effetto Notte. Avete sentito molte notizie, approfondimenti, adesso continueremo tra poco, c'è anche lo spazio europeo. I vostri messaggi alla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666 a proposito del fallito accordo del Movimento 5 Stelle col gruppo europeo dell'ALDE. Villa dice: se ci sono motivi tecnici va bene, l'importante è ottenere l'obiettivo principale che deve essere l'uscita dall'euro, attenzione però il referendum non va bene, meglio affiancare una moneta parallela o i certificati di credito fiscale. Simone scrive: non credo, sulla pagina Facebook di Effetto Notte, non credo si entri o si esca dai gruppi europei come da un bar, spero occorra condividerne se non gli ideali almeno qualche idea, non mi risulta che 5 Stelle dice siano né europeisti né liberali, il pressapochismo trionfa. Elena invece dice: meglio tardi che mai, 5 Stelle Farage erano una roba che probabilmente ha fatto arrabbiare molti nel movimento. E poi al 349-238-6666 un WhatsApp di questo ascoltatore che dice: Grillo ora sa che cosa vuol dire far politica, ossia trovare il giusto modo di far valere le proprie ragioni e poterle realizzare. Le aveva riassunte nel blog in cui chiedeva il passaggio all'ALDE per contare di più in Parlamento. E tra pochissimo torniamo sull'Europa con lo spazio europeo. Vi ricordo le notizie principali sono appunto questo schiaffo dei liberali europei a Grillo, no dell'ALDE al Movimento 5 Stelle, eppure gli iscritti avevano aderito per il 78,5% a questa alleanza, e poi malati curati a terra a Nola in Campania e NAS all'ospedale con il governatore De Luca che dice subito via i responsabili, 3 sono stati sospesi, 3 dirigenti. Migranti, riapre l'ambasciata italiana in Libia, Alfano dice un segnale di fiducia, intanto è stata raggiunta un'intesa tra il ministro degli esteri e dell'interno Minniti e il presidente della Libia Serraj per il contrasto all'immigrazione clandestina. E poi questo tentato femminicidio con la benzina, il 24enne dà fuoco all'ex fidanzata di 22 anni, poi però lei lo difende dall'ospedale dicendo innocente, ma il PM di Messina non gli crede. Europa. Youzone, incontro con gli europarlamentari. Bentrovati agli ascoltatori di Radio 24 da Silvia Bernardi. Torniamo a parlare dei rapporti tra Europa e Russia e apriamo il dossier sanzioni. Per l'Italia ammontano a 7 miliardi di euro in 2 anni. L'agroalimentare è il settore più colpito dall'embargo totale della Russia, che ha chiuso completamente le frontiere ad una lista di prodotti come frutta e verdura, formaggi, carne e salumi, ma anche pesce, provenienti da Europa, USA, Canada, Norvegia ed Australia. Al divieto di accesso a questi prodotti si sono aggiunte le tensioni commerciali che hanno ostacolato di fatto le esportazioni di tutto l'agroalimentare e anche degli altri settori, dalla moda fino alle auto, settore dove la presenza italiana era tradizionalmente molto forte. Ne parliamo con l'europarlamentare Stefano Maullo, appena rientrato da una missione in Russia. Qual è il clima che si respira lì? Ma intanto credo che il clima abbia cambiato verso rispetto a un atteggiamento, quello degli Stati Uniti, che era di assoluto ostracismo. Quindi le aspettative rispetto a una ridefinizione del regime sanzionatorio sono molto alte. Ha destato stupore invece la posizione dell'Europa espressa attraverso il Presidente della Commissione, che era ancora legata a un vecchio schema, quello delle sanzioni legate alle tensioni con l'Ucraina e, guarda caso, anche con la Siria. Io penso che si debba andare in una direzione di ricomposizione di quello che è stata, di quella che è stata la frattura con la Federazione Russa, proprio per il grandissimo valore economico da un lato, che è stato ben specificato, ma soprattutto politico, in una dimensione di interesse che noi abbiamo con questo grande e straordinario mercato. Da parte loro ha intravisto possibili aperture verso l'Europa? Esistono una serie di player economici, dal settore energetico per finire a quello finanziario, che operano in Russia ormai da decenni, che sono interessati a continuare e riavviare i tradizionali rapporti. Esiste questa forte volontà da parte del governo della Federazione Russa e soprattutto dei grandi potentati economici che stanno dietro questo straordinario paese. Credo che sia assolutamente importante cogliere questo momento, soprattutto con una serie di iniziative diplomatiche che partano dal nostro paese, che è sempre stato cerniera tra il sud e il nord dell'Europa, ma anche tra l'est e l'ovest. Quindi il ruolo dell'Italia deve essere assolutamente puntuale. Auguriamoci che il nuovo governo colga questa opportunità. Quindi cosa possiamo ipotizzare per l'inizio del 2017? Ma io credo che si debba ragionare su un tema assolutamente puntuale, che è quello di dare un tempo di attuazione agli accordi di Minsk per poter ricomporre le tensioni in Ucraina, e se in un lasso di tempo che l'Unione Europea deve mettere come paletto per quanto riguarda il comportamento dell'Ucraina non si arrivasse a una ricomposizione, ovvero all'autonomia delle regioni russofone, io penso che si debba andare verso una direzione diversa, che quella di eliminare le sanzioni, perché a questo punto sarebbe palese la mancata volontà dell'Ucraina di andare in quella direzione, vuoi per grandi problemi politici interni, vuoi per cattiva volontà rispetto a quello che invece credo che debba essere il contesto, un'autonomia maggiore di queste regioni e soprattutto la necessità di ricomporre le tensioni con la Federazione Russa. U-Zone. Incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus. Per quanto riguarda invece il tema dell'immigrazione, oggi c'era il ministro dell'interno Minniti in Libia, è stato concordato un progetto di memorandum d'intesa per rafforzare la cooperazione tra Italia e Libia contro l'immigrazione illegale e il traffico di esseri umani. Ne parliamo col professor Francesco Cherubini, docente di Organizzazione Internazionale dei Diritti Umani alla LUISS di Roma. Professore, buonasera. Buonasera a voi. Che ha un significato concreto questo accordo? È un progetto di memorandum d'intesa. Tra l'altro è stata riaperta domani, riapre l'ambasciata italiana, no? In Libia. I rapporti si rafforzano? Sì, anche se occorre naturalmente, per poterlo valutare, conoscerne i contenuti. Parlo dell'accordo, naturalmente. Sì. Perché? Perché diciamo, non è una novità che i paesi dell'Unione Europea e la stessa Unione Europea cerchino una forma di cooperazione con gli stati terzi da cui provengono i flussi o da cui transitano più verosimilmente i flussi per cercare di bloccare lì i flussi. Il problema è particolarmente delicato però perché questa operazione è in potenziale conflitto con alcune norme sui diritti fondamentali del diritto internazionale e naturalmente anche dell'Unione Europea. Professore, c'è un ascoltatore che scrive: l'accordo col governo libico sembra un camuffo dietro al quale noi paghiamo e loro non ci mandano i barconi. Vedremo se si faranno avanti altri chiedendo soldi per fermare i migranti. Ma il sospetto è appunto questo. Tra l'altro ci sono ormai diversi precedenti, sia che riguardano singoli Stati membri, sia che riguardano l'Unione Europea. Il precedente forse più celebre attualmente è l'accordo dell'Unione Europea con la, esattamente, con la Turchia. Questi accordi normalmente vengono negoziati in un più ampio contesto di cooperazione, per cui poi brutalmente si offrono aiuti o benefici di altro genere. Nel caso per esempio della Turchia si è offerta la riapertura di alcuni capitoli del trattato di adesione, si è offerta un'accelerazione della negoziazione sull'accordo di facilitazione per il rilascio dei visti in cambio di misure contro l'immigrazione irregolare, misure che vengono normalmente definite non entry measures, cioè proprio perché bloccano il flusso prima ancora che il flusso arrivi all'interno, all'interno dell'Unione Europea. Quindi poi bisogna giustamente, come dice lei, capire nel dettaglio che cosa prevede questo progetto per ora di memorandum d'intesa. Professore, ci dobbiamo purtroppo lasciare, ma ci sarà naturalmente occasione di risentirci. Grazie professor Francesco Cherubini, buon lavoro. Buonasera e buon anno a voi. Grazie. E noi ci ragioniamo brevemente alle 22.